Babi. Temato la testa è il mio colpo del diavolo, ti grillo il cervello, tu scherzi col terzo occhio del ciago. Temato la testa è il mio colpo del diavolo, ti grillo il cervello, tu scherzi col terzo occhio del ciago. Temato la testa è il mio colpo del diavolo, ti grillo il cervello, tu scherzi col terzo occhio del ciago. Sono tornato, temato la testa è il mio colpo del diavolo, ti grillo il cervello, tu scherzi col terzo occhio del ciago. Sono tornato. Temato la testa, il mio colpo è il diavolo, ti grillo il cervello, tu scherzi col terzo occhio del ciapo. Sono tornato col cuore in testa della Mecca, una santa fede in festa, santa mala in festa. Sono tornato e il ciapo. Brillo come Blin, ora sono blind. You pickle to me, occhi ciechi di suerte. Come Bocelli ho il terzo occhio del tocco, terzo occhio del morto. Nella muerte, attento alla tua suerte. Tu giochi un gioco, io con una penna in mano sono morto. Poi risorto, inchiostro su inchiostro eterno. Brillo come Blin, ora sono blind. Più piccolo tu mi, occhi ciechi di suerte. Troppo, albo dell'orco, tu destino di muerte. Troppo, orbo dell'orco, tu destino di muerte. Troppo orbo dell'orco, tu destino di muerte. Al bimbo loco saltellante andranno i giardini per sempre della sua arte. Al bambino loco saltellante i giardini per sempre della sua arte. Frode, attento al cannone, sei stato la muerte dei trapper. Frode, attento al cannone, sei stato la morte dei trapper. Frode, attento al cannone, sei stato la morte dei trapper. Temato la testa è il colpo del diavolo, ti grillo il cervello, tu scherzi col ritorno del ciapo. Temato la testa è il corpo del diavolo, ti grillo il cervello, tu scherzi col terzo occhio del ciapo. Sono tornato.